Letture di Radio 24. Le indagini sull'omicidio della tredicenne Yara Gambirasio sembrano battere il passo e così il sindaco di Brembate Sopra ricorda che anche gli inquirenti dovranno rendere conto della loro competenza, mentre il giornale locale L'Eco di Bergamo pubblica una lettera anonima in cui si denuncia una mancanza di coordinamento tra forze dell'ordine nel corso delle indagini. Ma gli esperti ribadiscono che le indagini, in casi come questi, sono lunghe e delicate. Le cose di solito vanno in questo modo. Capita un delitto, uno di quelli dove il corpo viene trovato parecchio tempo dopo la morte, e la vittima non suggerisce alcun movente, nessuna pista investigativa tradizionale, come ad esempio la passione, il denaro o la vendetta. Allora le indagini segnano il passo e la parola passa allo scienziato, al medico legale. Ma non basta uno specialista qualunque per distinguere tra le ingiurie del tempo e le ferite inferte da un assassino, l'effetto del clima e l'intervento della fauna attirata dai segni della morte. Ci vuole un patologo forense, un esperto capace di leggere al di là della superficie. E quando Cristina Cattaneo, docente all'Università di Milano, ha ricevuto l'incarico di esaminare i resti della povera Yara, ha certamente rappresentato che le sue risposte non sarebbero arrivate prima di parecchie settimane. Al più, poteva fornire agli inquirenti un rapporto preliminare, indicativo ma non completo, e su questo si è basata la conferenza stampa del procuratore capo di Bergamo, Massimo Meroni. Nessuna novità importante, ma l'esigenza di sgombrare il campo da una serie di ipotesi fantasiose rilanciate dai media. Prima fra tutte, quella della pista esoterica satanica, fondata sulle ferite presenti sul corpo di Yara. Naturalmente verrebbe da chiedere a chi ha proposto interpretazioni del delitto così insolite a quale esperienza attinga, visto che al mondo non risulta una sola storia simile. Quanto al resto, il procuratore non è andato oltre. Alcuni cronisti hanno sintetizzato che la morte di Yara sarebbe avvenuta per il freddo. E se fosse stabilito con certezza, sarebbe l'ennesimo disperato dolore che verrebbe consegnato alla sua famiglia e a noi tutti. Ma sono certo che la professoressa Cattaneo ha solo affermato di non aver trovato una singola lesività di per sé letale. Se a uccidere Yara non sono state le coltellate, oppure la lesione da corpo contundente, è evidente che c'è stato un concorso di cause, forse anche lo shock e il freddo. Per ora dunque, lasciamo almeno da parte Satana e i satanisti, perché la storia insegna che l'uomo è capace delle peggiori azioni, senza alcun aiuto soprannaturale. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Niente Satana, basta l'uomo, a firma del criminologo Massimo Picozzi e pubblicato da Il Giorno, quotidiano nazionale di mercoledì 16 marzo. Le reti digitali non sono una droga, ma strumenti molto delicati. Questo è il parere di un'esperta come Sherry Turkle, autrice di numerosi saggi sulle tecnologie digitali, che spiega il possibile isolamento che potrebbe derivare dall'eccessivo uso dei social network. Nel suo ultimo saggio, Soli insieme, la Turkle mette in luce gli elementi scatenanti della solitudine digitale, un pericolo serio, visto anche l'uso a volte scorretto che si fa delle reti sociali. Stai assistendo a un funerale, ma la coda dell'occhio è attratta dalla lucina rossa del BlackBerry che lampeggia nel taschino. Per un po' resisti, poi lo tiri fuori con noncuranza per leggere il messaggio appena arrivato. Un ragazzo sta per ore col cellulare in mano a scambiare testi, ma non parla mai al telefono. Perché? Perché se conversi perdi tempo. È difficile chiudere e poi rischi di rivelare troppo, di esporre le tue emozioni. Appuntamento a casa di una possibile babysitter, cerchi di capire se è la persona giusta. Apre la compagna con la quale divide l'appartamento. È in camera sua, ora l'avverto. E digita un messaggio sull'iPhone. Ma non si fa prima a bussare. Oh no, non farei mai una cosa così intrusiva. Scene da Alone Together, Soli Insieme, l'ultimo libro di Sherry Turkle, una docente di psicologia che all'MIT di Boston analizza l'impatto delle tecnologie digitali sui comportamenti sociali. Di studi di questo tipo, sull'alterazione dei meccanismi dell'apprendimento indotti da internet, sulla difficoltà di concentrarsi e andare in profondità in un'era di bombardamento di messaggi, aggiornamenti continui e link che ti portano altrove, ne sono già stati pubblicati tanti, Ma l'evoluzione delle tecnologie pone problemi sempre nuovi, mentre l'esplosione del fenomeno delle reti sociali sta creando negli Stati Uniti un dibattito infuocato nel quale prevalgono le visioni critiche. Da quella di The Dumbest Generation, la generazione più superficiale, un saggio di Mark Bauerlein, docente della Emory University, allarmato dalla tendenza dei giovani a usare internet non per apprendere, ma quasi solo per comunicare in un vortice di messaggi spesso banali e redatti con un linguaggio abbreviato. Al giovane studioso Eugenie Morozov, che in The Net Delusion sostiene che reti come Facebook impigriscono i giovani, illudendoli che basti un click per diventare socialmente attivi. La Tarkol merita un'attenzione particolare per il modo in cui tratta il problema della solitudine digitale, l'idea di poter socializzare restando chiusi nella propria stanza, senza un vero contatto umano, ma anche per le sue note sull'evoluzione del concetto di simulazione. La docente dell'MIT parla con l'esperienza di chi ha scritto il primo saggio sociologico sulla rete nel 1984, all'alba dell'era dei computer. Oggi è più pessimista di allora, ma cerca di essere costruttiva. «Non sono una luddista», dice, «e non mi piace usare per le reti sociali la metafora della dipendenza». Non sono droga, sono strumenti delicati che dobbiamo imparare a usare bene. Del resto, quello della simulazione digitale sta diventando un problema anche fuori internet. In rete c'è quella del secondo io, l'immagine diversa di sé che si dà online. Nella vita reale arrivano i robot per l'assistenza agli anziani, già diffusi in Giappone, l'illusione della compagnia meccanica. Avete ascoltato la lettura dell'articolo «La solitudine digitale è un pericolo serio» di Massimo Gaggi, dal Corriere della Sera di venerdì 11 marzo. Quando il lessico non è più familiare. Un libro raccoglie allo stesso modo di un dizionario 100 vocaboli del Novecento che hanno perso la loro centralità storica, abbinando a ogni voce un breve testo dedicato al linguaggio sparito. Raffaella De Santis, a parole come emancipazione o jukebox, ha dedicato un libro tanto piacevole da leggere quanto colto e acuto nel modo di considerare la materia. Le parole disabitate. Aragno, 296 pagine, 15 euro. Vedendo quanto la passione del passato e l'insistenza sulla memoria occupino i nostri discorsi e i nostri pensieri, si potrebbe infatti temere che la nostalgia finisca prima o poi per rovinarci. Il vintage è una sorta di memorialistica degli ancora giovani e spesso non ancora saggi che ha invaso ogni settore merceologico. La musica pop è fatta di continue cover e ripescaggi. Le librerie sono piene di libri autobiografici scritti a qualsiasi età, nei vestiti, nei colori, negli oggetti. Tutto ciò che almeno una volta è stato di moda, oggi lo è o può esserlo ancora. Il discorso riguarda anche il linguaggio. Mentre una volta la curiosità collettiva verso il lessico era rivolta essenzialmente ai neologismi, ora sembriamo attratti dalle parole vecchie piuttosto che dalle nuove. Da qualche edizione lo Zingarelli segnala le parole da salvare, lemmi tuttora esistenti come pavido o ineffabile, ma che rischiano di cadere in disuso a favore di termini più noti ma meno precisi o espressivi, timoroso e indescrivibile. Interessante, ma l'etichetta da salvare applicata a queste parole è il segno di un'operazione sulla nostalgia. È inoltre uscita da Rizzoli il libro delle parole altrimenti smarrite, in cui l'artista Sabrina D'Alessandro esibisce una collezione di termini obsoleti scelti e abbinati con finezza, come obumbrato per offuscato e raplapla per tedio, tran tran. Il lavoro di Raffaella De Santis ha un senso completamente diverso. Niente nostalgia, gioco quanto basta. Il libro è organizzato come un dizionario. Non contiene parole tecnicamente desuete. Si tratta più che altro di parole che hanno perso la loro centralità storica, come padroni, naia, sovietico o transatlantico. Voi dite scapolo e De Santis vi fornisce un significato affiancato a un'etimologia. Lo scenario londinese degli scapoli di Mariel Spark, un accenno moralistico di Cesare Pavese che rende meno stereotipata l'abbinata liturgica tra il sostantivo scapolo e l'aggettivo impenitente. L'evoluzione storica della figura dello scapolo, dopo l'introduzione della tassa sul celibato del 1926, una vignetta di Maccari, un racconto di Kafka e un cameo di Alberto Sordi che sigilla icasticamente l'immagine italiana dello scapolo, prima che avvenga la sua trasformazione in single. È con questa ricchezza di testimonianza e con questa grazia di montaggio che un'abbondante manciata di parole, invecchiate male ma ben scelte, ben ritratte e ben accostate, può bastare a scrivere un capitolo di storia. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Le parole scadute, dalla Repubblica di giovedì 4 marzo, a firma di Stefano Bartezzaghi.